Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Se ci ascoltate la mattina, vi do un buon fine serata. Se invece ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo, come ormai faccio sempre, la mail unabusoalgiorno@radio24.it e vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Si chiama Guardie o Ladri e lo trovate nello spazio appunto dedicato ai blog del Sole, oppure digitate in un motore di ricerca blog di Roberto Galullo e lo trovate. Mi farà davvero piacere se lo visiterete, se lascerete dei commenti. Allora, il 30 gennaio del 2009 la sezione del lavoro del Tribunale di Catania ha emanato una sentenza in base alla quale, così titola il giornale La Sicilia di Catania, sono lecite le mail sindacali e quindi è stata condannata un'impresa che in buona sostanza riteneva invece non lecito, non doveroso, non consono ai doveri di un dipendente spedire delle mail durante l'orario di lavoro. Ebbene, queste mail erano spedite appunto da un sindacalista che ne spediva circa 200 ai dipendenti della ST Micro Electronics, ed ecco che quindi diciamo anche il nome della famosa, oltretutto, impresa coinvolta in questa vicenda. Quindi il giudice del lavoro in buona sostanza ha dato ragione al dipendente. Noi, per capirne di più e per capire se si tratta di un abuso o se invece, come ha sentenziato il giudice del lavoro, un abuso non è, abbiamo chiamato a discuterne con noi l'avvocato Salvo Spataro, che rappresenta il lavoratore. Buongiorno avvocato. Buongiorno. E l'avvocato Francesco Andronico, che invece rappresenta la ST Microelectronics. Buongiorno avvocato Andronico. Buongiorno. Allora, partiamo dall'avvocato Spataro. Che cosa ha riconosciuto, in parole povere, questa sentenza del giudice del lavoro di Catania? Sì, io spero di non cadere, diciamo, nel tecnicismo. Non è una sentenza, è un decreto, perché l'azione era promossa per accertare la antisindacalità dell'azienda, che aveva deciso di punire in via disciplinare dei rappresentanti sindacali unitari che, tramite la comunicazione per posta elettronica, veicolavano e divulgavano notizie di natura sindacale. E quindi si tratta, quello che comunemente chiamiamo un articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, la repressione della condotta antisindacale per essere stato sanzionato un RSU, il cui status è equiparato a quello di dirigente sindacale. E anche su un'altra cosa mi vorrei permettere di dare una piccola correzione, perché in realtà il dipendente in questione non inviava circa 200 email, ma inviava una email a indirizzi plurimi, quindi il messaggio era unico, anche se rivolto a più indirizzi di colleghi su account di posta elettronica aziendale, quindi su account ST Microelectronics. Sì, ha fatto bene a precisare ambo le cose, perché così almeno siamo ancora più precisi in quello che esponiamo. Perché la pronuncia lambisce la questione della liceità delle mail, ritiene che se ne occupa il giudice, prende posizione su questo, ritiene che comunque l'aver sanzionato un dirigente sindacale che ha comunicato notizie sindacali per posta elettronica, verificata anche la ampia prassi di comunicazione di notizie sindacali in quell'azienda per il tramite dello strumento informatico, fosse antisindacale, fosse una ingiusta compressione delle prerogative del sindacato, che nella fattispecie è la FIOM CGL. Benissimo. Catania. Allora, direi che è abbastanza chiara la posizione di chi rappresenta il lavoratore. A questo punto io andrei invece a sentire chi rappresenta e ha rappresentato la ST Microelectronics, che in questo caso invece è stata, come dire, sanzionata con una sanzione appunto di 1.600 euro di spese processuali, oltre ovviamente al riconoscimento a favore del lavoratore di un stato, diciamo così, perdurante di lesione della sua libertà sindacale. Allora, avvocato Andronico, è proprio così, oppure questa sentenza, questo decreto, come ci ha giustamente corretto l'avvocato Spataro, a voi non convince? Sì, mi fa piacere essere d'accordo con l'avvocato Spataro, almeno su una cosa: che non si tratta di una sentenza, ma si tratta di un decreto. E poi, per quanto diceva lei, non è vero che ho rappresentato la IFT, perché per un difetto di notifica, in quanto non è stato notificato presso le gare, la sede legale della società, la IFT non è stata in giudizio. Diversamente invece la IFT si è potuta difendere in un giudizio davanti lo stesso tribunale, sezione lavoro di Catania, questo per dire come vanno le cose in Italia, altra stanza con altro giudice, il quale il 14/8/2008 invece ha escluso che il comportamento dell'IFT potesse costituire una condotta antisindacale. Allora, io ricapitolerei per i nostri radioascoltatori. Ha fatto bene a dire che la ST Microelectronics è stata condannata in contumacia. Voi non c'eravate, io non sapevo il perché, ora lei ce lo ha spiegato. Ma è giusto invece ribadire un altro concetto, vale a dire, qualche giorno prima, mese non importa, settimana non importa, in una stanza adiacente a quella del giudice unico del lavoro, Marco Sabella, che appunto aveva preso la decisione di cui stiamo parlando il 30 gennaio 2009, in realtà un altro giudice del lavoro aveva preso una decisione esattamente contraria. Riassunto bene, avvocato Andronico? Riassunto bene. Il sindacato, invece di adeguarsi alla prima sentenza, perché il giudizio è col sindacato, non col lavoratore, invece di adeguarsi alla prima sentenza, ha ritenuto bene proporre un altro ricorso, ripeto, non notificato correttamente alla società. E a questo punto quindi ci sarà un ricorso, suppongo, da parte vostra? Abbiamo già depositato stamattina o ieri mattina l'opposizione verso questo decreto. Bene, allora io direi di andare allora al precedente o sentenza o decreto, questo dovrete dirmelo voi, emanato alcune settimane prima dallo stesso giudice del lavoro, non lo stesso fisicamente, ma sempre il Tribunale di Catania. Parliamo del 14 agosto 2008, quindi in buona sostanza eravamo a Ferragosto con la gente già al mare. Allora, avvocato Spataro, le cose sono andate così come ce le racconta l'avvocato Andronico? Rispetto al precedente giudiziale, assolutamente sì. Rispetto all'opposizione che mi viene preannunziata, chiaramente non conosco i contenuti, non certo. Sono in grado di allora, prendere posizione. Ecco, allora le chiedo, avvocato Spataro, ma com'è possibile che il giudice del lavoro una volta dice è un comportamento antisindacale e alcuni mesi prima invece dice no, non è un comportamento antisindacale? Quindi in buona sostanza mi pare di capire, ma correggetemi se sbaglio, che la STM, Microelectronics, ma come lei, tutte le imprese che si trovano nella stessa condizione sono in grado di impedire che nell'orario di lavoro non si spediscano mail di natura sindacale ai dipendenti dell'impresa. Ecco, come lo giudica questo fatto, avvocato Spataro? Dunque, qui qualche distinguo. Chiaramente la fattispecie è molto similare, anche se non è esattamente identica. Il primo decreto incentra la sua attenzione sulla circostanza che dalla documentazione in atti non risulterebbe una prassi ridondante in azienda da poter ritenere che la comunicazione all'interno della società ST Microelectronics fra le parti sindacali dipendenti avvenisse comunemente tramite lo strumento della posta elettronica aziendale. Quindi mi permetto di dire che l'esame dell'esistenza o meno dell'antisindacalità in quella fattispecie si arresta qualche metro prima, perché il giudice, nell'assenza di una norma che lo consideri lecito o illecito lo strumento della veicolazione di comunicazioni tramite posta elettronica, riteneva non sufficientemente provato una prassi che invece noi riteniamo esistente in ST Microelectronics di comunicazione e veicolazione delle informazioni sindacali tramite la posta elettronica. Ecco, è molto quindi chiaro quello che lei ci ha spiegato. Devo dire che la materia è davvero affascinante, perché ci troviamo anche in un campo relativamente nuovo anche nel modo di fare sindacato, e giustamente quindi i lavoratori puntano a tutelare i diritti così come si evolvono e le imprese puntano a mettere dei punti fermi per capire ciò che è e ciò che non è comportamento antisindacale. Ma io vorrei, visto che le due parti sono chiare, chiedere al nostro esperto anche in questioni di privacy, Giuseppe Busia, al quale do il buongiorno. Buongiorno. Di commentare, comunque di chiudere, per quelle che sono le conoscenze che abbiamo, di commentare questa vicenda che stiamo appunto trattando. Prego Busia. Sì, si possono dire due o tre cose. Uno, sicuramente è un caso in cui le nuove tecnologie fanno sì che i diritti tradizionali, il volantilaggio sindacale, ovvero lo scriversi una lettera, cambino modalità e debbano essere calati sulla realtà moderna, e quindi le modalità di fruizione dei diritti stanno cambiando anche nelle aziende. In questo caso specifico i diritti che hanno fondamento costituzionale sia sul versante sindacale, adesso non ritorno sui due giudici e i due avvocati, certo, che hanno già parlato sulla condotta del sindacale, sia per quello che attiene alla libertà e segretezza della corrispondenza, quindi esiste anche un altro livello di tutela comunque per le email spedite, sia per quello che attiene alla privacy, quindi alla sfera della riservatezza e l'utilizzo dei dati personali. Con riguardo a questo, da ultimo si può indicare che al di là del contenuto sindacale esiste comunque una tutela e di segretezza della corrispondenza e inoltre di tutela della riservatezza, il garante con un provvedimento di carattere generale aveva suggerito ai datori di lavoro di individuare delle policy chiare in modo che sia i lavoratori, sia chi interloquisce tramite mail con i lavoratori abbia chiaro qual è l'utilizzo che si può fare delle email, se si possono usare per motivi di lavoro, per motivi sindacali o per altro, quale restrizioni si hanno nel loro uso, eventualmente fornendo per le comunicazioni private un altro indirizzo di posta elettronica. Benissimo, quello Busia. Che è importante è che ci sia una chiarezza dall'inizio, quindi la regola della trasparenza nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore, perché questi diritti non siano eccessivamente compressi. Bene, con questo invito al dialogo che mi sembra sacrosanto tra lavoratori e imprese, io direi di chiudere questa puntata ringraziando i miei ospiti, in regia Pietro Lacorte, in studio Laura Faggin e Roberto Galullo. Ovviamente vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.